se no poi divento nervoso a casa, quindi mi devo rilassare e poi rientro. Kappa, cosa fai? Ti compri la pizzetta? No, negativo, oggi niente pizzetta, se no mi trovano la pizza, mi trovano la forma di pizza. Kappa. Cos'è? Ecco il segnale che è iniziato, il segnale là. È iniziato? Kappa di positivo, il disturbo è iniziato adesso. Cavolo, chissà cosa sarà. Ma c'è qualcosa allora che va con il timer, non è questione di giambusaglie come dicevamo noi. Non si può venire vicino a casa tua. Io sto scendendo. Cappa. Voglio vedere se sento anch'io il segnale. Cava Rogero. Una cosa allucinante. Già, è una cosa allucinante, sì. Perché questi qua ci devono attrezzare, stanno disturbando, perché c'è lui ha diritto di parlare, non ho capito. Come quando disturbiamo noi, chiamano qua, chiamano là. E anche noi abbiamo diritto di parlare, però abbiamo pagato una tassa per parlare. Infatti. Ma già si scopre cos'è? Ce lo scopriamo. Infatti. E c'è stato sarà qualche damer, capito. Che? A che cosa? Orologio che parte a cosa, capito? Trimmer! Il trimmer, dai. Trimmer. Adesso vediamo un po'. Infatti, ma dove sta andando a casa di Giuseppe? Vicino, a vedere se sente l'umore. Cava. Purtroppo. Cappa di Rogero. Sciambire se non ascolto. Cappa. Perché? È una cosa un po' strana. Alle 8 ogni volta, comincia proprio puntuale. Normale, c'è qualche camera che lo fa partire e lo fa smettere a quell'ora lì. Infatti, e cosa volevo dire? A che ora smette? Alle 9 mi pare. Grazie, ora sta, bubù. Sì, più o meno così. Qualcosa che c'ha lui vicino, capito? Qualcosa che lui ha vicino e le rientra tutto tramite l'antenna. Gianni, paghetto, spostatevi sul 14 e sentite questa melodia. Scappa. Ma sentite? Aspetta, bubù. Adesso mi tiro il giubbotto e scendo, però per portatile non so manco come comportarmi io, non lo so, comunque provo, dai. Scappa, sabacero. Così è. Il segnale è più forte proprio vicino a casa tua. Kappa, adesso provo, sto tirando il giubbotto e sto scendendo, ho messo sotto carica manieri importanti, mi vedo un pochino cosa riesco, cioè cosa riesco a scoprire, che ne so io. Ciao Gianni, ciao Giuseppe Falchetto anche. Cappa Giulio, ben sentito, ben entrato. Rinforzato, l'antenna abbiamo messo. Ottimo segnale, ottimo. Sentiamo l'uovo qua, giusto. Così almeno, oltre a uscire meglio, riesci anche ad ascoltare meglio, no? Ma c'è sempre questo pischio. Stavo sentendo, io non sento niente qua, che cosa è successo? Oh, io lo sento, cavolo se si sente. C'è Gianni Doppio Rubi, c'è la casa di Giuseppe, lì entra dentro il baracchino per un'ora questo rumore. A meno che non c'è qualche elettrodomestico lì in quella zona. Perché io non sento niente, io sento solo pulito a voi e basta, non sento niente. Appagato, invece quando vuole dove tu e si sente. No, non so cosa dirti, perché non sento niente, ma veramente. Aspetta che ci faccio un po' più di attenzione, vediamo un po' se lascia un attimo senza mettere la portata per un attimo, che voglio vedere se riesco a captare qualcosa. Capa. No, perché niente, anche aumentando il volume non sento niente, no? No, lo fa quando stai modulando tu. Allora, il segnale è più forte sotto casa di Giuseppe, dai, ho fatto il giro, sono al viaggiotto, Giuseppe, se mi vuoi raggiungere lì sono al viaggiotto, però dalla parte per salire da Vasco, lì, tutto nell'incrocio. Oh Gianni, aspettami, se io non so dove sei, aspettami un secondo, sto scendendo col portatile. Sì, ormai sotto casa tua, perché mi ho fatto tutto il giro e non è da ripetitore, perché è una cosa praticamente che è vicino a casa tua e probabilmente anche nel tuo portone. Cappa, sto arrivando. Hai capito dove sono? Dove c'è quel fosso famoso, tu guardi, per viaggiotto sono andato in viaggiotto. Giulio. Chi sei, Giulio? Perché sono dovuto scendere a aprire la porta, sono dovuto scendere a tirare sotto per aprire, che è arrivata mia figlia. Stavo dicendo, allora Gianni, tu cos'è che hai intenzione, cioè di dirmi se quel suono che state sentendo? Perché io sinceramente, guarda, non sento niente, pulitissima la frequenza. Allora, è un suono che cambia le notte, non è la stessa notte, non è che faccio tipo non so cosa dirti, io qua non sento niente, veramente. Forse sono troppo lontano da quel segnale, ed è per quello magari che non riesco a sentire niente. Vabbè, ma è fastidioso per voi, com'è questa storia? Devi salire, andate in viaggiotto, scendendo da dove c'è quel fosso che tu metti a stare attento, sale in viaggiotto all'inizio, lo so io. Ho capito. Ma ecco, cosa stai facendo? Stai cercando di rintracciare la posizione già? Oppure c'è qualcuno, cioè ad esempio a Giuseppe che gli dà fastidio, cos'è? Giuseppe non può lavorare dalle 8 alle 9 di sera, ogni giorno c'è questo rumore. Allora c'è qualcuno lì che ha individuato magari che Giuseppe entra a quell'ora e allora sta facendo lo stupido, sta magari giocando con qualche strumento che dà fastidio. Evidentemente qualcuno che qualcosina ne capisce. Sicuramente non può essere diversamente già, se tutte le sere fa questo giochetto, evidentemente qualcuno che vuole disturbare il proposito a Giuseppe, capito? Ma potrebbe essere anche qualche cosa comandata da un timer, capito? Sì, ho capito. Evidentemente qualcuno ha sognato un sistema come disturbare Giuseppe. Qualche deficiente, qualche imbecille sicuramente, quello vuoi d'altronde. Peccato perché Giuseppe non si merita certamente una cosa del genere, è una persona come si deve e dunque non sta bene, ecco. Ma speriamo che non continui con questa storia qua. Un attimo di piano. Scappa. Ok, beh, riesci a sentirlo anche tu, ma non ho capito bene, tu com'è che riesci a sentirlo? Tramite la modulazione di Giuseppe oppure ricevi tu direttamente questo segnale? Com'è qualche? No, io l'ho sentito addirittura senza che Giuseppe modulasse, l'ho sentito ieri passo passo passo. Oggi lo stesso lo stavo rifacendo, però addirittura quando stavi modulando tu. Ah, e allora qualcuno che ha qualche marchingegno che riesce a mettersi in questa frequenza e a disturbare, e che cosa può esserci? Non mi viene in mente niente, non so più cosa dirti, non lo so proprio perché. Giulio, neanche io vado a... non so cosa pensare proprio. Ma che? Era quello, un'altra modulazione. Quale? Ho sentito una voce bassa bassa, ma di chi era? Sono io, sono Giuseppe con il portatile. Ah, ciao Giuseppe, col portatile sì, ti sento passo passo, non è che capisco molto, avanti Giuseppe. Capo, non lo sento più, fa che? No, va bene, avanti Giuseppe. No, Giulio, ha fatto l'entrata, però non riesco a tirarlo fuori un po', No, non lo sento più, Giuseppe, se mi stai ascoltando, io non ti sento più, nemmeno fa che tu ci senti. Oh, Nisma, niente da fare, non sento più nessuno. vabbè, che cosa ci vuoi fare? Purtroppo ci sono, i galleggianti ci sono sempre, perché stai tranquillo che c'è sempre qualcuno che non sa come togliersi gli occhi, allora cerca di dare fastidio alla gente, capito? Campa giù, è così, mannaggia la marina, cavolo, boh, ma non trovo di meglio da fare durante la giornata, diciamo. Il sistema si sarebbe, cioè, basterebbe che si battesse la testa al muro. Cosa vuoi che ti dica? Perché purtroppo le persone, ce ne sono di tutti i tipi, e ci sono quelle persone che sono nate per disturbare e per dare fastidio al prossimo, e allora, ma tutto sommato, se poco a poco riflettiamo un attimino, conviene ignorarle, perché poi magari è anche peggio, perché questa gente ci gode nel sapere che stai dando fastidio al prossimo, capito? E allora è meglio ignorarle. È vero Giuseppe, è vero. Ma tu hai la tua modulazione, le punti così? Ma le punti abito io, e allora? Via Ettore Mula, le punti abito io, fa che? Comunque con questa antenna ti sta arrivando bene, dai. A voi, a Santiago 9, con questa antenna mi sta arrivando alla grande, come tutti del resto. Ti sentivo benissimo anche prima del radio, però il segnale era basso. Ha migliorato come dal giorno alla notte, cioè o meglio dalla notte al giorno, perché di giorno c'è luce, la notte è più fastidioso vedere. Mettiamola su questo paragone qua, o fa che? La notte al giorno, Dalla notte al giorno, infatti, non dal giorno alla notte, dalla notte al giorno. E beh, certo, vabbè. Vedo così comunque, sono contento, cosa hai messo, la mantova? No, un assidio. Ah, un assidio, vabbè, buona anche quella, perché no, ci mancherebbe. No, io la cambierò l'antenna appena che inizia il tempo buono, dai, perché la mia, come ho detto più volte, ormai è messa male, ci manca la metà dei radiali, ma quando incomincia il tempo buono, che si può stare sul tetto, eccetera, e allora lo faccio molto volentieri, mi compro una mantova e ciccia, e me la piazzo. Gappa, va bene, ma tutto sommato riesce abbastanza bene giù. Sì, perché è un'antenna che avrà almeno, guarda, senza esagerare, non vorrei esagerare, ma almeno 27 anni questa antenna qua. Probabilmente anche di più. Ed è una stella, 16 radiali, però in questo momento ne mancano quasi la metà, le manche di radiali che ti puoi immaginare in una determinata zona, magari spingo di meno per il semplice fatto che ci mancano i radiali, ma lo so, mi ha dato tantissime soddisfazioni, ho modulato dappertutto, anche all'estero, addirittura anche in Brasile, non è che perciò non è. E devo dire che funzionava e sta funzionando ancora. Però adesso sinceramente quando arriva l'estate, diciamo l'estate, il tempo buono, non l'estate, non c'è bisogno di aspettare l'estate, ma il tempo buono, e me la ordino quella, se non la trovo Sassari me la compro e me la piazzo, così, per la bella antenna nuova, un capriccio o fa che. Kappa, dai, va bene così Giulio, però tutto sommato vecchia vecchia, ma si fa sentire, dai. Sto andando adesso con un baracchino che non è di quelli che è più forte, diciamo, dai. Il microfono è sempre quello, perché già uso sempre quello, però il baracchino non è il più forte, ma comunque già va bene lo stesso. Benissimo, forte e chiaro, se non stai parlando attaccato a me. Anche tu, già, non stai scherzando, guarda, ci posso garantire che non stai scherzando nemmeno tu, soprattutto il radio è bellissimo, chiara, proprio una bellissima modulazione. Cappa di loggio. E allora, giù, che ci racconti di bello? Ti racconto, sono appena rientrato dal lavoro, infatti adesso mi sono chiuso la porta, forse che mi avevano anche chiamato da giù per la cena, non lo so, se non mi hanno ancora chiamato, la cosa è molto molto vicina alla chiamata, perché io la casa ce l'ho a più le fili, no? E dunque adesso in questo momento sono arrivato la notte in camera a letto, pensa che poi ci sono altri due piani a scendere giù, cioè il salone e poi la tavernetta, dunque la cucina ce l'abbiamo lì e sto aspettando la chiamata per la cena, tutto lì. Kappa giù, ci va bene. Va bene, vediamo un po' se riusciamo a sentire di nuovo a Giuseppe, perché poc'anzi l'ho sentito per un attimo ma poi è sparito. Giuseppe, ci sei ancora? Lo sento, perché? No, io non lo sento neanche giù, se diventa sta parlando in verticale con Gianni o più giù. Ho capito, evidentemente così, sì, in effetti se si sono trovati e stanno parlando di persona direttamente, è un altro discorso. Babbo, dai, la chiamata che ti dicevo è arrivata, nel frattempo che stavi modulando tu, purtroppo mi dispiace se devo lasciare, ma la cena è pronta e devo scendere per forza, anche perché mi sa che sono già tutti a tavola qua. Ci sentiamo, Falchè, ciao, grazie per il piccolissimo QSO, magari ci sentiamo domani, questo sicuramente. Riprendi pure, Falchè, io ascolto il tuo filarino e poi chiudo e scendo giù per la cena, vai. Kappa Giulio, dai, buona carica, buon tutto, salutoni a te e guerra familiare, niente, buona carica e ci ascoltiamo tutte le migliori, ciao. Ok, ciao Falchè, ti ringrazio io per il tutto, dai, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao. Sento doppio ru. Giuseppe, Tornado, ci sei? Attento, Tornado. Gianni. Doppio ru. Attento, doppio ru. Giuseppe. Gianni. Giuseppe, se sei tu, batti due volte la portante. Sento che stai parlando, ma sei tu Giuseppe? Proprio no. Hola. Attenzione, canale 14, Kappa. Falchetto, ci sei? Hola. Probabilmente qualcuno aspetta questa macchina? Infatti io come mi sposto che faccio il giro non lo sento più. Gappa gappa. E Giuseppe? Ma Giuseppe adesso ci avrà l'umore che lo accompagna sino alle 9, e sino alle 9 non entra sicuramente, perché questo rumoraccio è assordante, ma sai cosa vuol dire? Ha ragione anche lui. È normale, quando è così, e cosa entra a fare? A sentire vale anche la pena. Qualche macchinario ha bussato anche da una signora, ha controllato, ha gentilmente spento le cose, non è quello lì, c'aveva anche un apparecchietto della fila, tutto quanto l'ha spento, non è quello, lo fa sempre. Senz'altro, allora è quello che hai detto già. Ma sa, comunque io anche con la macchina mia sono passato sotto e proprio nel punto di fronte a Giuseppe sentivo fondo scala. E tu, chissà cosa sarà, Ma che marasurti, Mi rompe le scatole, che più o meno si avvicina alla frequenza nostra e gli rompe le scatole. Infatti, ma lo avete provato invece su canali Alfa, per dire? Beh, portatevi, anzi, quello già ce li ha, ma no, non mi ho provato, la verità. E niente di strano che nel canale Alfa non si senta più quel rumore. Però è una rottura di scatole. È una rottura di scatole, sì. Che per dire, se sono tutti soldi, ci vedo, cosa fare, se non andiamo sugli Alfa Asso, magari non ce li hanno, gli altri cose, è sempre così, capito, una rottura, deve risolvere il problema. Quello è poco ma sicuro, deve risolverlo sì il problema, se no macello, Certo che se qualcuno che fa terapia per questioni di vita o di morte non può interferire. Ebbene, ci mancherebbe altro, quello è vero, Come ti stavo dicendo, comunque in ogni caso io mi ha detto Giuseppe che mi stava disturbando il televisore. Sì. Quello lì, quel rumore. Anche il televisore addirittura. Fa le strisce. Allora bisogna far intervenire, Fa le strisce anche dal televisore, capito? È un casino. Come qualche apparecchio. Qualche cosa che possa disturbare, non conosciamo, che qualcuno magari sa. Infatti, ma quello è tutto da verificare, già, se no è un problema, se disturba anche il televisore è ancora più grosso problema, Ma cosa c'è, certo, se capisce che qualcuno che lo fa apposta viene a tagliare un gambo. Quello è il minimo, lo credo bene. Che casino. Ma cosa vogliamo farci? Tu sei sempre in BM? Io sono in BM, mi sto fumando la sigaretta. Cava. Per prima lo sto aiutando a Giuseppe a cercare il segnale. Sì, infatti vi ha salutato anche Giulio perché ha chiuso. Niente, vi contraccambio e saluti, tutto, capito? Noi lo stavamo salutando, ma no, probabilmente non si sentiva. Col portatile l'abbiamo sentito per un attimo a Giuseppe, poi è scomparso. Ho fatto il giro del palazzo. Forse anche per quello. Per farvi notare la differenza del segnale, capito? Ehi, ho capito. Carissimo Contento. Carissimo Natalino. E beh, che si dice di bello? Noi siamo qua, non credo sia dagli affetti, Il segnalito ha migliorato il mio? Non lo so. A vedere, 1, 2, 3, prova. Sembra di sì. Dabba, abbiamo piazzato l'antenna. Che antenna hai piazzato? Sirio. Sirio, che antenna è? 6 metri e 50 di altezza, un 3 radiale. Grazie. avanti Gianni. Ecco, vai, buonasera. Avanti Luca. Siamo sulla mia vecchia pelle, tu è piazzata. E io. Fa passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. Prima di quasi un mese dicevi un poco più di un mese adesso, non è cambiato un poco. Ma prima una cosa, io non voglio sapere la tua via, ma dove abiti? Ti vicino alla caccia di Montenegro, lì? Scappa. No, non ho visto la tua antenna. È troppo alto anche. Scappa. Positivo, eh? Vabbè, l'importante è uscire bene. E come fa tra i primi giorni, auguri che sia migliorato, dai. E lui lontananza comunque tiene il segnale, capito? Prima si abbassava in lontananza, adesso non tiene il segnale. Perfetto, da quel nome ci vogliono il doppio della potenza per raddoppiare di compenso, figurati, lui ne ha raddoppiato 10. Capito là Luca, ecco perché ti arrivano le 10. Sotto, boh, ho capito, punto 10 sotto e basta. Comunque, anche la volta anche la mia vecchia pelle, ti posso dire che mi sono trovato bene. Ma ti parlo di qualche anno fa, ma avevo venuto a Soracchi, a Piero Drago, l'ho trovato a parecchio, a Penna, per caso mi trovavano nel capo, non lo potevano a modulare, mi trovavano nel capo, capito. Allora mi sono deciso, l'ho venduta. Aspetta. Ecco qua. Non ho fatto più collegamenti, a voglia. Parlavo con tutto Sasse tranquillamente, è stato bene. Gamba gamba. Già va bene, dai. Per quello che già va più che bene, dai. Che è l'altro, guarda, l'ho temporato in due. Ok. Sì, dimmi. L'hai vocalizzata bene, sì. Sì, beh, tutto vocalizzato, tutto quanto. Cavaga, già va bene. Adesso dovresti misurare le stazionarie, però. Le stazionarie, quando sarà il momento, le misurerò. Che magari potrebbe dare anche di più. Sì, infatti. Ma la casa me l'ha già data col segnale da metterlo, capito, la sticella. C'è un segnale con lo, il nero, e l'ho messa lì. Non è da quella lì, dai. Non è da stazionare quella, no? La pagava. E mi stavo parlando con Domenico, fino a dopo Praga l'ha accompagnato. Ho detto che andava più che bene. Sì, Joker. E poi di Abba sono un po' troppo forte. Ma cosa cazzo? Sono un bambato, non ti comprendo. Bene, fa così. Ma c'è un cristiano. Ehi, c'è un microfono troppo alto, va. E poi c'è la ventola del coso, dello scaldino qua, che è potente. Allora, prendeva quella. Allora, poi c'è una divisa da lì. Non vedi tutto in divisa. Cavagara. Dai, proprio di 4 bati ai morti. 4 bati a noi, allora. Ma sono malquito fra un po'. Ma fanno un negozio. Pure un casco mi ha arrivato. Mi sono una parte. Che non mi guardo un casco? Bocciardino, mica se viene l'ingegnere della sicurezza lì ti mette la multa, Se me ne affuso. Ti lascio nella riga, Non può fare nessuno. Comunque. Io la penso che porto di gelato, non si sa mai. Che piove, così. Un po' mi tappa, dai. Lo assai. Comunque, da noi in via Milano passava sempre l'ingegnere. Capito? Già, lo stavo dicendo, scusa. Stavo volando lo stesso se piove. Certo. Allora lì funziona così. Quando fa il massetto, c'è cioè fa il magrone, no, poi vado a fare il massetto. E purtroppo se lo metti i mattoni con la pioggia poi si secca e mi smantella tutto. Poi c'è materiale buttato, ecco. Adi si è costretto a lavorare sotto la pioggia e finirlo. Un casino, E anche se piove un bel. Cosa? Se piove un bel, se piove tra lei, va tra lì. È tutto così. No, perché certe persone magari non lavorano se piove, dai. Ce ne sono altri che quelli del verde urbano e cose non lavorano. Ma come è così? Quindi per esempio il verde urbano se piove non lavora. E lo dice una di figlie ma di pigliato. No, non sono più parte della qua lì. Ma si è calato qualcosa, ora la regione sta piovendo, loro non partono. Che burbulle va a travagliare su Vassari. Sì, vabbè, comunque non ti fare prendere la galera ma te, sì. Non ci abbiamo messo la fare autista, ma non ti fare collaborare. Due autisti bloccano, due autisti, ogni volta che piove due a turno ne blocca. Perché ci vogliono per forza, se succede qualcosa devono intervenire, capito? Io ho capito che l'autista lo fanno lavorare lo stesso. Quindi per l'autista nostro ci hanno trovato a caricare la betoniera, ci hanno trovato a caricare le pezzette, a caricare, diciamo che a secondo quello ce l'ha a fare glielo fanno fare, altrimenti niente. Non spetta a lui, no, glielo fanno fare. Se dove si rifiuta, compreso. Ma con la macchina se ne va, l'autista si può. Forse una casa mi guarda, una macchina di massa mi guarda. Ma è lui, non è compito che gli... non è cosa che gli compete, no? Lui deve solo guidare e stare attento al mezzo, basta. Mi allegare sì, Mattarino, informati. Allegare sì. E lì a solo, le cose che competono al mezzo e basta. Capito, si può proprio dare una macchina se ne va. E anche mi vuoi dare una manuetta, io pure faccio i così. Pur andiamo in impresa, perché se no se si stava Eddie là non eravamo chiusi la risa. C'è un ragazzo adesso che guida, guarda, ha 29 anni, non so ti faccia 27 anni. Bisogna vedere poi se l'hanno assunto come autista o come cosa l'hanno assunto. Anche se uno è assunto come autista deve fare autista, compreso. Posso dire che quella da poco l'ha fatta per due anni eppure lo posso andare a travagliare autista. Due anni infatti devono passare per poterti prendere come autista. Prima di due anni non ti piglia, ne devi avere a 5. Ma tu non hai detto tre anni? Come? Tu non hai detto tre anni? No, due anni ci vogliono. Due anni di 5. Oh, ehi, ehi. Casino. Faccio la magia, non la ritira ancora, cocco, mi ne vuole tempo. Aspettiamo. Cara. Quanti devono dire che tirano? Allora, il prossimo lunedì finisce il muratore nostro, il 22, e i due bianchini, i bianchini, che sono abituati alle scuole, lunedì. Finisco lunedì prossimo, ma questo deve andare all'altro, 22. E il cap. E qui erano altre tre. Ah, vedi i Fabri, fammi un esempio, i Fabri. Ce ne sono pochi. All'ultima volta ne ha fatto non so quanto, ma si è fatto i 4 mesi e poi un altro 4 adesso perché non riusciva a trovare un Fabio specializzato. Rinnovano il contratto a quello che c'è se non riescono a trovarle, capito? Infatti ci ha fatto 8 mesi, dopo ho capito da novembre, la sua richiamata da 4 mesi. E se non viene per forza te la paglia niente, ma gli usi? Non è fatti. In teoria se non vado a rano non vedo più non rifare, 4 mesi di vado urbano. Meglio battezzi, ti rifai. E si è cazzo di lampo, fa su cumaccolo. Tutto facciamo, tutto è stato lì. Ma per un mese bisogna dire, si trovano ai pari di mano per la radio. Infatti. Cara una vacca, so. Mi ha 15, tac. Si copra anche dei minerati, si copra anche dei dati. Ma sulla torre ci siamo due pezzi, qua. A noi. No, non lo so, quanto prendono i mulatti. No, oggi ci vuole fare una cosa e mezzo. Fatti un conto. Sono minimo, so. Fai €1.500, non di più. Quello funzionava diversamente. Prima ti pagano chi su che hai travagliato, lumesi, e dopo ti pagano i lumesi in trio. Così parliani da noi. Se ne toglievano tanto per dire che è entrato l'otto, no? E mi pagavano il mese senza i giorni che sono mancato, che non c'ero, capito? Perché loro chiudono i conti il 30. Ecco, cioè se tu entravi per esempio il 10, ti pagavano 5 giorni e poi dopo il 15. No, mi pagavano il mese senza quei giorni che non c'eri tu. Se sei entrato il 10, per esempio, l'entrato il 10 non ti pagano a chi non vedi, ti pagano la rimanenza. Compreso là, invece dati 1.000 euro, tanto ma ti dati anni 800, che ci ti spettano. E poi l'altro mese inizia a tornare da capo e ti pagano il mese intero. Capo. Vai, vabbè. Ma arriveranno, vai. Avanti. Falchetto, riprendi. Capo. È così. Allora. Abbiamo il mulatto di pollo, non fluido, non rotti ora. Sono pagate bene. Qua si fa di otturi. Cappa. No, devi fare 30 ore e sentime male. Sì. Non le puoi fare, capite? Il contratto è quello perché per la gente disoccupata non ti poneva otturi, da quello non travaglio così, mamma mia. Anzi, forse c'è di lui chi viva dentro la bianca, perché sono giovani da passato, che si fai di voi. Allora, guarda, proposta, una cosa, faccio un euro in più. Devo pagare la parte. Questo è un busto a paga, buono. Perché lui ha l'albero, hanno aperto. Non ne può fare di quelle proposte. Che contratto, tu fini il contratto per 30 ore, non ne puoi fare. A chi se tu mi rivai, non ti mi paga. Perché il comune è fuori busta, non te ne può dare. Se la chiamano a proposta, non glielo posso fare. Dai, so. No, Rubini va. Chiuso così del lì, non si può fare. Che? E se no tutti me la venivano a fissare di là. Unica luce, se tu tanto badi ti fai ore in più, ti disegna in vista che metti la giornata di e te li fanno recuperare una giornata in meno, ti fai a picco. Se tu ti fai 6 ore, tanto per dire, di straordinario, ti tocca una giornata libera. Quello sì lo possono fare, perché non te la possono pagare per contratto. Io te lo possono non pagare. Infatti, cosa? Se, infatti, è così, va. Perché loro ti fanno firmare il contratto a te per 30 ore settimanali. Di più non ne vuoi fare. Perché sono contratti per la gente disoccupata, non è che sia a tempo indeterminato, no? Sì, a tempo determinato, 4 mesi. Dopo i 4 mesi ti fu di cura. Anzi, una di manco te ne va, te ne va. A chi tu tanto va di, entri, lo desi e finito noi. Io torno il 30 di giugno. Vuol dire sei entrato il 31, così è. No, l'uno sono entrato. Vabbè, l'uno, dipende, una di manco di ne va, te ne va, già lo gioco. Una di manco, il vostro. Siamo fatti il conto l'acqua lì. Adesso voglio andare, prendiamo quello di marzo lo prendo ad aprile, quello di aprile lo prendo a maggio, quello di maggio lo prendo a giugno e quello di giugno lo prendo a luglio, così è. Mi pare io, vero? Ecco. Poi un di pattando lo cimento, cazzo. Ma attendi Fredding che dimmi, bobo, vai giù a dimmi ne attesa, cazzo, il lo scaldino in occhi, anche se no qua dentro muori di freddo. Ma ti credi che pure dove è freddo, fai? Adesso mi inchino. Pusci in acqua, oppure no, già è troppo freddo, non ti preoccupare. C'è un qualcosa già raddo, come che mi hanno già come l'acconi. Ehi, ma non hanno atteso di riscaldamento in occhi, ma tutti gli altri non sono voluti andare a pigliare un materiale. Si contentano di stare freddo, ha detto mi dà la macchina a me con un carrello, andò io il migliore materiale da giù, io cosa mi gioco? Fa una puntiglia a me con un migliore, con una moglie di capo non l'ha pigliato. È vero, il riscaldamento è giudato, le rendi ginni. Ma la macchina è riscaldata là. La macchina è riscaldata là. Eia. Ma adesso. Eia, 200 euro mi hai costato, usato. Una puleggia e il coso, e il tendicinghia, la cinghia mi ha dovuto cambiare perché stava rompendo. Ti immaginate? Anche a Roberto con la puleggia ce l'è bloccata, solo con la puleggia, una puleggia piccolina, mi sarà un 5 cm di diametro. Nel tuo erotio non gusta. Giustamente è una puleggia speciale, che c'è anche uno sprizionamento, già una specie di frizione. E a Roberto si è bloccata, beh, è dovuto vissa. A me mi sei passato, infatti mi ha detto come avevi verraglia. Cazzo, ma non ha giusto, giudizio tra me e meno. E infatti il meccanico ha detto, bloccala immediatamente. Vabbè, che non lo faccio andato bene, dai. Si è speso 100 euro. Mi è andato a Messia, chi sono andato da un meccanico, era amico di Roberto e mi ha trattato bene. A Roberto Quadrato c'è una multipla già, quella puleggia come la mia, uguale, con quella frizione lì. Solo quella puleggia piccolina piccolina, due sabbi di 100 euro. Babbo, ma là ti fa che? Capo, faccio un attimo di bianco, la riprendo subito. A me mi pare tu sia andato a verso lui, o a su che? Non mi freghi tu a me. Oh, vale. La mano giù fatturata la domanda e speriamo di entrare in graduatoria in chimica. Quale? Quella per commessi d'ufficio, ha fatto due coppie di passi. Non è male, perché c'è la prima roba, non c'è più la di su. Ah, io li faccio tutti, io oggi bisogno di travagliare la pittina. Poi chiedevano al modello ISO del 2008, quello che ho presentato è faccio zero. Io non ho lavorato nel 2008, quindi mi spetta. Invece nelle altre, se mi chiedono il modello ISO del 2009, cazzo, è una tanta regia. Ma che graduatoria entro, cazzo? Bene. Quella del 2009, io ho lavorato e quindi ho il reddito del 2009, no? Si era voluto fino all'ultima busta paga, all'ufficio di collocamento, quando sono andato, per dire che avevo finito, mi hanno chiesto tutte le busta paga, e si l'hanno insegnato in il computer, non hai compreso? Deve essere perché c'è gente che ha presentato il modello ISE falso, e allora loro lo sanno se tu hai lavorato o no, capito? E quanto hai ritirato pure. È un casino ragazzi. Vuol dire che qualcuno ha denunziato, ha che ne fatto roba fasulla, e detto allora devo agire così per forza. Paga. Vabbè. Comunque, adesso vediamo. Se il tempo non permette, non fa una storia in più. Ma non guardo, c'è niente. No, ti ribagani, ti va che tu da lì, barami, tanto parti ti vado in accumulare 6 ore di straordinari e così ti tocca una di libera. Pagata. Non penso tu non andare a lavorare, ti pagano la stessa. Così è. No. Te la fanno recuperare la giornata, però a mettertela in busta paga non te la possono mettere loro, è un ente pubblico, capito? Vabbè, ma vediamo. Cosa mi dici, signore? Non è forse un altro rivebo? A me, allora, loro che mi toccano. non ha giocato, a chi cazzo, cioè non mi piaceva, mi già non fai qua, io andavo lo stesso, non me ne ho recuperato, fin tra l'ultima di ciò che è andato a travagliare. Beh, vabbè, comunque, ripeto, se lo propongo e loro me li danno, questi soldi buona, sono nei vostri. E come ti tira a paghi anima stessi, ti lo dissi, ti prendi una giornata libera quando fai 6 ore. Capitola, capitola è Luca. Ed è pagato ugualmente, tu non travagli e sei pagato. Per esempio a me mi vorrebbe, io potevo fare un cazzo che vorrei, se vorrei, perché a me nel giorno che sono andato a Cagliari per quell'arruolo studia là. Invece i caramini là di non me ne hanno calato e me ne hanno pagato uguale. Io non ho detto al dottore, devo mancare perché devo fare un esame a Cagliari. Va bene, mi dice, vada. Non ho preso. Mi ha giudito al dottore. Io adesso che arrivi da fine mese ne ha buttata che me ne viene pagata. Ti immaginate, non me ne hanno calato di surrata. Adesso vediamo. Vediamo un po'. Ma che ci vuole entrare, già entrani, della sera non interessa l'argomento, te lo travaglio, cazzo. A chi è l'argomento vero? Quando si tratta di travaglio, mamma mia! Sì, Tutti fuggini! Ezzo diavolo! No, ma io già ero ben voluto, ero preso in considerazione perché io lavoravo, capitola. Veramente manco della macchina si riparava. Poi c'è la gente che è dispiaciuto che avevo finito. Invece gente, neanche colleghi che per esempio erano per 4 mesi solo, anche a loro dispiaceva che io avevo finito perché cazzo mi vorrei i vecchi, trattavano i vecchi, compresi ora. Gappa. Con questa tangente nuova, scusa, già di niente, fa 4 mesi all'anno. Poi lui fa sempre questi 4 mesi all'anno. E perché vuol dire che in graduatoria è quando riesce lavora. Compreso. Ah, ma chi sono anche io con Vemmo io? Chi faccio il redditi del 2009 e del 2010? Perché io ho finito nel 2010, e allora cazzo disegnava in luglio. E l'ha già voluto buttare purusa del 2010, la purusa erano i 4 di. Però ha giubilato un bel di là, chissà che la paghetta ha giocato per io, ti rammenti tu? Quella busta paga che ti ho fatto vedere io quando eravamo la signorina Angela. Eia, che tu sei entrato in un negozio che ha stagionato 1000 metri fa 4 di quanto mi hanno dato, perché ci ha compreso liquidazione e il resto delle 100 ore di dicembre, che ho pigliato 200 spiccioli. E quelli mi risultano all'ufficio di collocamento, lo sai, che li segnava in rosso il computer finché non gliela portata, ha detto me la porti se no cazzo non entra in graduatoria, mi l'ha giunta buttiamo la giusti. Gaffa. Certo. Vabbè, comunque lui risulta tutto normale, è normale, capito? Che casino, va. Casino, vabbè. Facciamo questi 4 mesi, poi si vedrà come ce la fa. Speriamo di almeno di beccarne altri 4 mesi, cazzo, perché quelli mi fanno 2 anni, sono stato l'altra volta a fermo. Per i redditi del 2007. Che va, poi ti butterà tutto, ma fatto la domanda all'altra, il tram. Non mi prendono. Non mi pigliano. Allora andala all'arte, Ardu. E poi mi faranno sapere quando c'è il concorso, tanto la carta del tachigrafo ce l'ho e lo posso fare quel concorso lì. E una volta che non ve limite d'età, speriamo che diamo la man di buona quando lo rifanno il concorso. O che mi prendano per 4 mesi, così, cazzo, ogni tanto. A me mandare. Comunque. Ma noi diciamo, cosa ne esce? Via. Di più Luca, qui di più la Sarotti quando sono uscito ancora se mi ne attesa, no? Come sono uscito pure a cazzo pensare male, ma congelato però un vento di tramontana a cazzo che Dio lo mandava, senti a pagato via finiminiglia il riscaldamento, ma una puntiglia mi non ha pigliato le cose, non ha atteso il riscaldamento, ma ti immaginai? E si contenta di morire di freddo, cazzo, a chi no che ben freddo ci dà gli affetti. Appazza, vabbè. Non hanno come riscaldarsi, Natalie. E a chi tu si intendi amare, andate voi a pigliarlo, potete andare un figliolo, no? No, poi è voluto andare ci vede, allora niente. Infatti, è già a bisogno di tutti che sono andato il riscaldamento. Cazzo. Vabbè. E tu vuoi ti fa da pari batti due, e dici fatti di pari batti venti, guarda la punti. E ho preso, ma sento un po' pure, vai pure, a lui. Anzi, cacciato verso, cacciato via, chi mi fa, finta l'aria atteso, tutta la volta atteso il tassi. Positivo, positivo. Per tirare la Zeminea, un cazzo, bravo, ma di regna. Beh, siamo con un pareggiare. In più mi ha regalato un cazzurone di regna, di 10 pezzi di regna, batti di rubogo, Giulia, cazzo, ha già attaccato un fugarone in occhi, oh yeah. Cos'è? Ah. Io, Giulia, cazzo. Oh, yeah. Peso per loro. Io l'ho detto questa mattina. Io poi ho usato il gioco, cazzo. La dava a me la macchina con un carrello, cazzo, e andò io a pigliare il materiale. A chi pure a me mi conveniva. Tu a fare un favore, non mi costa niente. Capito? Non mi ha detto niente e niente l'ha giudito, ma ti ha preso il fuoco, molto molto io sono in casa mia e ti sono in casa detti. Vabbè, certo, certo. Come si capa a casa propria. E allora, mi ne preso un ghizzo, manzano, le tue case dopo fritta, tutta a terra. Allora, tutta a terra, tutta a fuori. No. Nel tuo caso dopo fritta, come ti sia, la nonna di signora Maria Antonia, la nonna della mia ex, che tutta a terra, cadere a casa e a far magna. Ma ho giocato un bel poco di milizia dai cecci. Oh Luca. Ma Mara. Mara, ma giù questi sono da sita, Rube Varone, in mezzo, yeah. Sanno di cazzo, quindi sarò su raggio ne va. Accordi? Faccio pure i pallettoni. Ma so che cosa un matto qui. Suia. Ma ti sei guardato a Guccio, cazzo, suia. Ma tu ti sei guardato a Parigi. Cazzo, ti bombardeggio il Sanno. Ma no. Da sotto, cazzo, ta ta ta ta ta ta, mi arrapica, cazzo! A te proprio che c'è lì si... lì si torni, oggi lì si... lì si torni, dopo la dolce, c'è qua, ammazzi lo tutto, ammazzi! Il gas verifico siamo, cazzo! No, il pacchetto sarà ritenuto dai baffini! Sono al 5 a Parì. Al 5 so. Sicuramente l'ho pulizzato un po'. Avanti un gatto e ne rifaccio il canale. Dai. Se gli cambia la capsula, qua il punto, vedi come esce il radio. Cazzo, io vi potete accettare, lo dite, cazzo, siete dai carri. Marrogne. Cosa di sapere, vedi, a Minocchi con Massimiliano, sono entrati gli altri e quindi siamo stati qua. No, siccome c'è Yogi che già ha comprato, oggi gli è arrivato il tuo stesso apparecchio, gli stavo dicendo che tu ci hai cambiato la capsula col microfono, adesso va bene. Senti a lui, Yogi, vai avanti, faglielo sentire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma allora io sul microfono, noi è forse barruzza. Così uscivi tu, me Natali. Adesso ti senti come uscivi, così uscivi. Però lì se ci cambierà la capsa, arriva a me, perché tu adesso funziona benissimo. Ehi, la capsula vuole cambiata sicuramente. Basta mettergli una capsula di CTE, tanto sono di quelle capsule grandi che usano quei microfoni dell'Alan, quelle nere. Sono quelle capsule lì che monta, gli danno il microfono diverso da quello d'Antonio. Pure è arrivato da Matteo Sicilia. Ma però se gli fa quel lavoretto, se lui si può vedere, glielo facciamo vedere cosa deve fare e glielo diciamo, non è che poi esce bene quella radio. Io sono bravo, quindi vado a capo, adesso la sto provando la radio, mi sono fatto già arrivare il circuito per fargli una piccola modifica. Ti volevo chiedere una cosa, hai una scritta che si chiama SP? Attivo. Non c'ho l'SP? No, aspetta, come è scritto a te? Sì, il tasto azzurro mi sembra che sia. Ah sì, K positivo, c'è. Prego. Schiaccialo, va bene. Schiaccialo, Giuseppe. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però vedi che ci ha migliorato, schiaccialo un'altra volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, va meglio, Natali. Sì, che va meglio. Va bene, deve mettere il sito l'SP, cosa c'è mai, avanti. No, è entrato Giuseppe, ha chiesto il break, adesso lo facciamo entrare. Avanti Giuseppe, con la buonasera. Di positivo, buonasera Mario e ben sentito, ti ho nominato anche stasera, mannaggia, buonasera a tutti, Vera, Bombolo, Natalino, Iopini e che più ne ha più ne metta, cappa. Buonasera Giuseppe, ben sentito. Ciao Giuseppe, ben sentito, io ne approfitto per salutare a tutti che mi guardano un po' di TV. Ben entrato Giuseppe. La pasta già me l'ho scaldata, ci sentiamo alle prossime, va? Attenzione questo bastone. Attento Mario, forse Natalino non ti ha sentito. E sicuramente, l'ha già chiuso, ma non mi ha sentito, cappa. Tu non mi ascolti Giuseppe. Cappa di positivo, 9.35 qui nella mia postazione e di radio per lo tiro 4, Mario. Aspetta che sono chiamato, Natale, ciao, buonanotte. Ciao Natale, buonanotte se mi senti, se no niente. Alle prossime, cappa. Vai a tu. Cappa, buonanotte Natalino, dai, ciao alle prossime. Ma cos'è, una bombera o ti hai messo qualche altra cosa? Una bombera sotto il radialino. Cappa. Ho capito, senza quello stilo che va in verticale. Cappa. No, va bene, la voglia. Sto segnale che mi ha dato Giuseppe. È vero, 9.35, sono... perché qui è il ruolo non distanziato un po' di un metro rispetto a quello della macchina, però sono sempre sotto segnale e lui è dall'altra parte. Mario, ti sei abbassato la radio, come mi sei abbassato la radio? Adesso va bene, rispetto al mio Beh, quello lì è perché è sotto, è sopra l'apparecchio là, è incassato tra l'apparecchio e la mensola. Cacca, è Mario. Dimmi Giuseppe. Ascolta, ma se a quello che è rimasto sul tetto della mantova gli attacchiamo una Turbo 2001? No. Guarda Giuseppe, io quando salgo sul tetto in tanti giorni, adesso non lo so se arriva lunedì, martedì, niente. Come arriva il primo sabato è? La piglia la piazza, non c'è problema, là. Adesso l'importante è che voi vi sentiate e che ci possiamo scambiare quattro chiacchiere, poi il resto è ultimato. K di positivo, qui io comunque ti confermo, Mario, che qui stia arrivando tutti le 9.35, 9.30 è sicuro, radio 4. Se avessi avuto quelle puntine in più andavi bene lo stesso. Comunque, qui ti ascolto benissimo, ti tiro fuori molto bene. E va bene, dai. Vabbè, ma intanto pochettino la posizione del microfono, come va ora? Adesso ti do radio 5. Hai visto, ci voleva così poco. Ci vuole poco per accontentarmi, hai visto Mario? Così siamo vicini. Sta pagando, ci prendiamo per mano e così non abbiamo paura del buio. Ma di positivo Mario, sempre alla grande, su che si va? Nulla, vai Vera! Ia. E allora Giuseppe, com'è stasera? Si è presentato il rumorino? Cappa di positivo, puntuale alle 8, anzi alle 20 in punto, è spuntato lui. Mi sono fatto un giro con il portatile ed effettivamente dovrebbe essere qui, non nel mio palazzo, nella mia via, perché poi ho fatto il giro dell'isolato dove ci sono quei trasmettitori o come cavolo si chiamano, quei cosi lì del telefono, e lì addirittura segnale ne ho poco e niente. Qui nella mia via, nel palazzo di fronte, fondo scala. Ma nel mio palazzo non penso, perché abbiamo provato a fare le scale, c'era anche il mondo più rum, stasera con me ha fatto anche lui un giro in macchina. E ti posso dire che sicuramente nel palazzo di fronte a me, sicuramente quella persona che stavo dicendo io che sta facendo l'ossigenoterapia, e poi sicuramente gli avranno dato qualche altra storia da farsi a casa. Ma non è che già, aspetta, ma c'ha l'ossigeno in bombola o c'ha il robotino? Ah, questo non lo so, guarda, io vedo che gli portano questo affare con il carrello e un affare basso, poi anche con l'affare che si porta a tracolla. Ah, ho capito. Allora quello entra in funzione a un determinato orario, entra in funzione e ricicla, fa il riciclaggio dell'ossigenoterapia. E allora è quello. Io mi sono avvicinato col portatile proprio sotto la sua finestra, perché questa signora abita, diciamo, a piano terra, no? Ed effettivamente lì in Santiago era a fondo scala. Perché c'è un affare di riciclo, entra in funzione, a determinato orario entra in funzione, invece fa il riciclo dell'ossigeno, lo ionizza, sicuramente quella macchinetta lì allora. Qualcosa ci deve essere, perché non è possibile che io abbia questo disturbo ogni benedetta sera dalle 20 alle 21, alle 21.10. Sì, poco fa mi ha smesso, perché se no stavo andando a attaccare tutto. Quando è che non si gioca più a questa? qualcuno che voleva entrare, avanti. Zappa, buonasera a tutti. Buonasera, Pomponio. Buonasera a tutti, salutami. Sai, c'è un buon segnale anche tu, è un ottimo radio. Mi hai attaccato un paletto. Mi sono parlato per scoppi che ho attaccato anche la macchina. Ciao Antonè, ben sentito e ben trovato, K. Ciao. Kappa, Kappa, vi ascolto tutti comunque. Ma non so tu, e a me mi ascolti, cambio. Io ti ascolto, so che con te ma che ti ascolto. Kappa, Kappa. Ho piazzato sta la bufala, ma sento lo stilo, sento il radiatino di sotto. Io già ho sentito già. Già arrivi comunque, ma che non arrivi. E l'importante è sentirsi, Pupù. Poi quando arriva il tutto lo piazziamo. E niente, dimmi una cosa, quella roba mia è tutto a posto? Ancora non è pronto a posto per niente. Ma a proposito tu, anche la cosa è arrivata così, Cosa seguite non l'ha trovato giù a Cagliari. Niente. L'ho fatto ordinare da maestrale. Lunedì o martedì dovrete arrivare. Ah, va bene, ok, allora ci siamo a posto. Va bene così allora. Quindi mi ascolti bene adesso. Che fa? Per positivo, radio 5 ti do adesso, Radio 5, segnale, sì, non sì, proprio sì, ma comunque ti avvicinerà. Però radio adesso è 5. Meglio così, ho staccato questa bolina di pista, l'ho messo un palo, ho lanciato al muro. Ha lasciato con la gaffa stasera. Ho messo l'antenna che c'è nel piedistallo. Quella un quarto d'onda e lui mi sono già funziona bene. Lascia così e non toccare più niente, lascia tutto così. Va bene, lascialo così. Sottolineo, io quasi 2.5, cioè 2.5 e scendere 1.4, comunque già va bene, dai. No, amici anche Yogi, avanti Yogi. Yogi, ci sei, sì o no? Di positivo. Buonasera Antonè, qui 9.20 e Radio 5 finalmente, che riesco a sentirti proprio bene bene. Aspetta, mi ha risposto Yogi, avanti Yogi. Come? Ha risposto Yogi, avanti Yogi. Ma dove sei qua? Ah, sei qua. Mi, cos'è? Che Yogi ha cambiato radio oggi, nuova, mi. L'Intec 495, sito. Addio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E caspita, è bella come radio, bella, bella, bella. E dimmi una cosa, Yogi, che segnale dai tu a zio Giuseppe? Fai una prova. 1, 2, 3, batto qui in mezzese e batti su bene. Allora, Santiago 9 più 30, radio 5, molto buona. Cappa di positivo Yogi, sei un amico alla grande. Anche tu stai arrivando bene qui, forte, bello, chiaro, 9 più 20 anche tu. E radio forse è la tua voce che è un pochino bassa, Però fa tremendo te lo do di radio. Forse se ti avvicini un pochino più al microfono ti do 5. Prova. Con un pochino. Prova. Andrà bene, radio 5 adesso. 5 e lode. Quello, e tu lo sento io. Sì, a voi che te lo sento qua, sento a tutti qui. Sì, a te ti sento basso, come mai? Perché sono... Guarda, te l'ha attaccata la telefonina, ecco perché. Allora facciamo un giro di calcoli. C'è Yogi, c'è Antonello, c'è Giuseppe, c'è Mario Masser, c'è Bombo, una volta c'era anche la Vela, adesso non c'è più, ma Falchetto, dove? Scappa. Ma a proposito, Giuse, non sai perché siamo sul 5? No. Era la domanda che ti volevo fare da poco fa, però non ho voluto interrompere la discussione. Mi dica. Perché stavo facendo un consiglio con Massimiliano, no? E eravamo qua su 5 e poi sono entrati via via tutti gli altri e siamo arrivati qua. Comunque non c'è problema, se non è che sia occupato possiamo ritornare su 10. Io ho venuto qua solo perché dovevo parlare con Massimiliano. Pierpa, tranquillo, io ho smontato alle 18 dal lavoro, quindi il 5 non lo uso, poi gli altri non mi interessano, quindi possiamo fare tranquillamente tutto quello che vogliamo. K di positivo, come dice il buon Mario Manzi, a farina. Però vabbè, allora se me lo rimane Mario, fai Mario Manzi. Attento Mario Manzi. Ah, ci sei? E più Mario Masel? Io? Chi ha lasciato? Ma mica aveva capito il passare a 10, no? Facciamo l'appello. Allora, io che ci sei? A Toia ci sei? E a voglia. Giuseppe, c'è? E per me? Avanti Gianni? Buonasera a tutti, dai. Ho notato che Mario c'ha questo fischio piccolo quando parla, tipo come se avesse stazionaria forse. Io in cuffia la noto, non so se l'avete notato anche voi. L'abbiamo notato, l'abbiamo detto, ma come altra applicazione c'è qualche stazionaria. Non so se c'è anche Mario, ci sei. Mamma che ci sono! Ma passa un po' quel fischietto, rinchi un po' l'applicazione. Guarda, se non le va meglio. Oh no, c'è ancora. Così? No, c'è ancora, come mai se prima non ce l'avevi? E tu, cosa adesso io? Lascialo così che adesso non c'è più. Senta, però ci sono un po' di stazionario, dai. Probabilmente sì. Perché con il microfono amplificato le stazionarie si sentono un bel, si sente un bel perché fischia. Siete sovrammutuli. Buonasera, ritorno un bel entrato. Cappa. Buonasera anche a lei, io sì, qui. Comunque sta scendendo bene, Mario, a casa vi prende. Ho messo una bombola recuperata, ci manca il radiale distorto, ma l'ho messo tipo antenna di macchina. Intanto per sentire gli amici, buco. E ma già si sente bene. Io ti ascolto bene, 9:10, radio 5. Tappa di positivo, andrà bene Vela. Riprendi Vela. E oggi Giuseppe, dai. Mario, qui arrivi più forte. Qui arrivi con picchi di 9:30 e ti stabilizzi a 9:20 e la radio è buona. Diciamo che è buona. A Torino se buona la radio di Mario. K e tra K. Se la riprenda, signor Bombolo. K. Allora, ma 9:25, dai. Perché di 9:30, perché ce l'ho di fronte. E va bene, niente da dire, dai. Meglio di così non si può fare. Ragazzi, ogni tanto ti fa difetto, eh. Non lo so, va bene, dai. Mi sentite, quello è l'importante. Poi se c'è qualche difettuccio non le fa niente. No, è che ogni tanto ti fa... Quel difetto che ti fa sempre se va via la voce, ti si mangia... La voce, la cuoca già è lo stesso che qua, dai. Avanti, Yogi, per Gianni doppio rumbo, allo senti, Gianni a Yogi, c'è la radio nuova, eh. Appa Yogi, ti sento forte e chiaro, buonasera. Yogi, non ti sento più? Vabbè, aspetta. Oh, Yogi, a ci sei, un po' in ritardo lui, dai. Allora, arrivare il cestino da non bere? No, no. Sbaffando il cestino della meretta, Padre, che se no fa peggio. Sta parlando con le signorine, io sta mangiando il cestino della meretta. riprenda, non può riprendere il tarantula. Dimmi, esubino che e ci state combinando di bello. Che cosa stiamo combinando? Cercate di dire qualche cosa siamo, qualcosa vuoi fare o cavare a chi? Più che fammi tanto. Altro non lo possiamo fare. Non so, se non è che ce l'avevi tu qualche giochetto. Non lo giochi qua io. Cosa vuoi che mi dica? Tu che già vi siete tutti. Io mi spavento, quanto sembra. Ma quella cosa mia, cosa l'hai messo? Mi dimentichi a tu, io un po' più. Che cosa? Aspetta, se quella roba mia l'hai messa, mi dimentichi a tu io. No, no, perché? Perché ancora non è fatta. Devo avere un po' di pazienza, ma che si faccia quei giorni, no? Perché, perché, si può dire, tre mesi, già. Sicuro? Tocca a muro. Non faccio solo quello, già lo sai, no? Devo fare anche i giumi. Quindi sono un po' qui, un po' giù, un po' qui, un po' giù. Chi lo è? Cattina? Sì, in campagna sono. Quindi finendo, capito? Ah, stai andando tu in campagna? A chi che si può, ho molto più di avrete, se non può andare. Ho mai separato. Già va anche lui, già va anche lui. Ma sempre da dietro passa? O da quello, da Birisi? Da Birisi passa sempre. Ah, ne ha pagato, allora qualche giorno bisogna che vada a tentarlo. Così si ripone un rio. Giuseppe, fino a parte. Eccolo qui a Giuseppe, eccolo qui il Bovena, mi dica tutto, tutto. Allora, questo segnale ce l'abbiamo di fronte. E cosa possiamo fare per eliminarlo? Guarda, guarda. Io... Arriviamo una porta di 1500 watt. Di positivo. A me se smette. Ma io gli avrei dato una botta di 765. 5. No, è meglio una botta di 1500 watt. Pronti? Buonasera, c'ho piazza in macchina e vediamo di dargli una botta a vedere se riusciamo a ridurre il rumore. Ma io già ho i miei dubbi, perché tanto mi sa che oramai non rimane che rassegnarsi, puntuale, ogni sera, guarda, e un orologio. È come che tu hai un orologio al polso che quando, cosa ti posso dire, gli organizzi la sveglia, no? Lui a quell'ora lì, pronti. E ti rompe le balle sino a quell'orario lì, un'ora e un quarto, un'ora e venti. Cioè qui sei praticamente seduto senza poter far niente in nessun canale. Vabbè, una sera facciamo la prova, ha detto che inizia dal 14, così è. 14 lo prende pieno. Allora vuol dire che il canale è suo. Inizia a disturbare e a noi la mettiamo proprio lì a vedere se riusciamo a dare una botta di freschezza, se sicuramente se ha una radiofrequenza e nella principale canale il 14 avrà colmo una bottarella, vedi? A Fudilini se c'ha radiofrequenza gli allenta. Ma io penso che sia un qualcosa di fatto apposta, con qualcosa con timer che sta lì un'ora e a gonfiarti le scatole, poi non lo so per quale. No, se forse sarebbe stato qualche cosa può disturbare un oscillatore di campo, se fosse stato un oscillatore, quelli si fanno a batteria finché non finisce la batteria, non so, a timer, no? Non credo sia una cosa, se ogni sera alla solita ora, non credo comunque. Tu figurati, che ho fatto il giro col portatile stasera e addirittura l'ho puntato sui ripetitori che ci sono del telefono di fronte alla piazzetta, no? E niente, è arrivato alla piazzetta, il segnale quasi scompare, non solo di aumentare sotto i ripetitori. No, ma i ripetitori non fanno di quel rumore, no? È totalmente diverso. Quello è qualche apparecchietto così medicale. E vabbè, se lo scopri chi è, comunque si potrebbe dirlo di schermarlo, di calarlo, di cambiare, perché non è che possono uscire con le onde così, eh. Kappa. Io... cosa ti posso dire? Stasera ci ho provato, dai, però... cioè, esci con questo coso qui, ti pigliano un po' sabbaetani, con chi carrada, ti pigliano un poco bammacco, perché bene o male il segnale lo devi guardare. Però ti dico che poco ne ho capito. Capito. Beh, anche te mi ripiglia bammacco, vuoi lasciare cantare, ma lì più che quel coso lì ci sarebbe voluto un radiovoniometro e con quello li avrei beccati guarda al volo, ma giusto per togliergli una curiosità. Ah, radiovoniometro è troppo impegnativo. No, non le conosci, cioè ti chiedere magari chi usa di queste cose lì, non ci intendi gentilmente. Posso provare domani? Pian pianino vedo un pochino di chiedere. Una persona già l'ho mirata e domattina sarà mia cura bussargli la porta e chiedergli se fa uso di questi apparecchi, tutto lì. Ma non per dirgli di non usarlo più, per carità, perché se lo usa vuol dire che ne ha bisogno. Però so che è quello e via, vi metto il cuore in pace, ciccia. Vabbè, se fosse un apparecchio del genere che lo usa, che è necessario, non è che si può fare niente. Però ti ho detto, l'incasuzione in quell'ora che c'hai quello lì sarebbe opportuno squesciare, tanto senti tutti quanti, dai. Squesci, non senti rumore in fondo e senti soltanto le voci che ti arrivano. Cava, anda bene, mira, dai. Facciamo girare che sicuramente stiamo annoiando la ruota, dai. E facciamo riprendere il buon Mario, perché anche lui con i problemi che ha l'antenna, mannaggia la marina, dai, avanti Mario. Sì, me ne sta tenendo poco i problemi per la mia antenna. Quando salgo su vedrai che mi spaccio tutti i manometri dello speaker. I manometri? A che manometro va lo speaker? Avanti Gianni. Appagata, e vabbè, ne siamo capiti, gli strumenti voleva dire. Andave. E noi, a noi ci piace, quando ci sentiamo così ci va bene. Stanno scherzando. Non si può fare una gaffa che è subito quella. Si mette subito i puntini. Si vera. Riprende io, e proprio io devo riprendere. Devo riprendere di nuovo il merlo. Questa sera, quando le sorprende troppa, lui va alla grande. Ho fatto una gaffa anch'io adesso, già. Gianni. Via. Ho fatto una gaffa. Tanto sentite. Cazzarola. Adesso prendo e mi taglio le vene. Alla prossima, va. Per questa volta ti perdoniamo. Ehi, alla. Ehi, vabbè, adesso se fa bel tempo, Mario, come arriva, si piazza e buonanotte. E non ci pensiamo più per 30 anni. ce l'ha 30 anni, tipo si possono fare anche 9, come si chiama? Vittorio Volpe. Sì, ce l'ha 30 anni, è vero, già ce l'ha molto di meno. Qui ha detto che c'ha 30 anni pure. Ma non ce la fa una tenda a leggere 30 anni, dai. Io ce l'avevo 19 anni, è venuto un po' di vento forte. Va bene, la mia li piglia tutti i vizi, non ne lascia manco uno, però 19 anni, quando si duri anche 20, 22, ma poi purtroppo l'alluminio sembra così, ma si corrode, il punto debole con l'andare degli anni gli viene e prima o poi si trocca. Cappa di positivo, Mario, però c'è da dire che quello che ha dovuto sopportare la tua antenna dopo 19 anni non era vento, quello era una tromba d'aria, un tornado vero e proprio. Io non è che mi lamento, mi dà fastidio perché purtroppo, cioè così schioccando le dita, non è che risolvi tutti i problemi, no? Si deve avere un po' di pazienza e via. Intanto ho fatto in modo da recuperare, a sentire almeno a voi, voi. K, hai perfettamente ragione. E figurati come avevo iniziato io, Mario, che forse tu eri uno di quelli dei pochi che riusciva a tirarmi fuori insieme a Coso, a Doppio Room, quando uscivo con quell'antenino piccolo magnetico che usavo nella macchina. Quindi figurati. Ci sistemiamo tutti quanti bene, anche Falchetto si è messo l'antenna. Magari sollevandola un po' di più arriverebbe anche meglio. Sicuramente non è sfruttata bene con l'antenna, però arriva bene, dai, lo stesso. Adesso c'è l'antenna grande anche lui, quindi si decide a mettere un palo più alto, magari ha messo 2 metri di palo. Gianni, lascia stare il palo di Falchetto così com'è, perché se lo solleva prende anche lui l'organetto come lo sto prendendo io. Se ce ne vuole un altro metro per te, per non prenderlo. E poi devo mettere in cima dove c'è il ragnetto la lucetta rosa che lampeggia, no? In maniera che non le butti qualche elicottero quando passa. Così giochi ad ondolarti ancora un po'. Non ricordarmi quelle dolenti notte che già quelle che sento con quell'apparecchio radio, non so come, e lo chiama il buon Vela, guarda, e mi ricorda come dondolavo su quell'antenna lì. A proposito, a antennista Ofrisi. Gianni. Crobatta, dimmi per me. A Gianni adesso. Giuseppe, stasera sono dato i numeri, A Giuseppe adesso, per andare bene, dovrebbe piazzarne ancora un'altra di antenna, un po' più in là e piazzarne un'altra, vero? Quella di riserva ci vuole. Ma la prima sei adesso ci vuole. Eh sì, sono a quanto attaccarne quella che c'è sul tetto, figurati. E so che accanto a farmi tutto canto in dinà. Figurati se sono lì pronto a piazzarne un'altra. Perché Giuseppe? Perché guarda, dopo tutti i sacrifici fatti, dopo tutto quello che sono riuscito a fare qui, mi mancava solo casa avere l'organo della chiesa dentro casa che mi scombussola le quaglie dalle 8 alle 9, alle 9 e un quarto di sera. Mamma mia, ma tutti sconsoli subito. detto, Come mi sconsolo subito? Cazzo, avete visto, cazzo, manco Tarzan avrebbe fatto quello che ho fatto io con un precipizio, cazzo, di 12 metri sotto, sotto il sedere, e tu mi dici che mi demoralizzo subito. Giuseppe, ti sei accorto qualche settimana fa, è successo, e poi è successo qualche mese fa, a me ogni tanto che cosa mi avviene, che per due volte, da che cavalcavo tra l'altra occasione, in un caruto mi si sente, ho fatto un casino che non mi è ben attivo, perché anch'io ogni tanto quel problemino si è già presentato due volte, e credo che non mancherà anche la terza, Va bene, d'accordo con te, su quello sono perfettamente d'accordo, però io sono già 3 o 4 giorni, se non 5, di seguito e che questa storia non mi molla. Adesso vedrai, magari fra qualche giorno glielo cambiano, quell'apparecchio che gli porta, glielo cambia quel robottino, vedrai che gliene danno uno più decente. È K di positivo, può essere anche così, come può essere anche chi muore e con l'apparecchio non lo usa più. Gianni, sincero Giuseppe. Ma gurese proprio, No, per carità, io non voglio male a nessuno, per l'amor di Dio, non mi conoscete, sono una persona la più pacata di questo mondo, per l'amor di Dio, però funziona così, nella vita bisogna anche rassegnarsi, e oggi ci siamo, e domani ci sono. Caso di rimediare. Vabbè, se non dice Giuseppe vuol dire che c'è i motivi suoi. Se comanda una buona cancellazione, ma gli passa tutto. Si intende il funerale nella via. Sai che c'era Torello che stava parlando, ma Torello. Ma mandagli una palacca a casa sua, capito? Gli fa il massaggio, vabbè che lui non usa più quello strumento, te lo dico io. Ma se ci fosse stata la palacca a casa mia sarei stato qui a perdere tempo con una massa di vigliacchi come voi che mi dite, iniziando dal doppio rum stasera, Giuseppe non sta uscendo di radio, Giuseppe ti sento basso, Giuseppe Santiago è così, eccola, ma io sarei stato con la polacchina, dico bene il doppio rum? Sì, ancora più bastardo di stasera. E poi dice che sono io, amica. Vabbè, comunque vogliamo vederti dondolare un'altra volta su quel palo, Giuseppe. Non ti ho visto bene. Gianni, mi sta lavorando male così. Vicino, se no le capite la vigilia di un po' del resto. Cosa mai, non ti ho capito. Ho detto che deve essere che non c'è la moglie vicino, se no le capiotte la via gli dato un col del reggio, se la via da traente la polacca. Qui è un approfittatore, quando non c'è la moglie ne approfitta. Non polacca, stavo parlando di polacchine, ciabattine, attenzione. Fuffa di luce. Su che andiamo Mario, su che rulliamo forte, altro giro, altra corsa, su che andiamo. Cappa, cappa, cappa. Ah, voi immaginate a questo Giuseppe, sotto, sotto, gatta ci corva. Gerba, gatta ci corva. Gerba, hai cambiato voce? No. Cappa. Perché? No, perché mi è sembrata la voce d'Antonello. No. E fa, chiamate Antonello. Esagerativo. Adesso domani dopo la manca va a vedere se funziona. Ora c'è la manca. Vieni domani la metto in questo paletto, vediamo come funziona. Attaccata posso ricordare qualche cosa. Siccome l'ho sistemata. Domani la provo per quanto pompa. Altrimenti ti serve un antennista, non hai che dirlo. Non c'è bisogno, io arrivo lo stesso nel paletto. Non lo lanciata al muro, mettendo il paletto, c'è lanciata, come si chiama, già, domani me la installo, vediamo a vedere come, cosa succede. Se funziona, quanto guadagno il ciabbo. Ehi, d'accordo con te, però così non c'è gusto, Antonè. Minimo ci devono essere 4 metri di palo, 4 metri 4,50. E in più devi mettere la mantova su, perché sennò come fai a soffrire di vertigini quando ti arrampichi per i coi, gli arrampini per tenere le cose, le, i tiranti, no? Devi fare tipo Tarzan. Una volta ho fatto 80 io con le antenne del baracchino, ho pensato a una installata antenne dalla 74 adesso, ma anche con Gran Prix, di tutto oggi piazzato, e poi messo addirittura la via di Cuba sotto il tetto di Vierizzi dove c'avevo io, la giravo con due fave di nylon, uno dal bambino e l'altro dall'ingresso della camera, con aprire le finestre e la facevo girare a mano con i cavetti, figurati tu. Raffaello! Ma tu c'hai la briga ancora, no? No, l'ho venduta quella, 20 euro. Ah, non ce l'hai più? No, non ce l'ho più. Mi è rimasta la mantova e quella l'ho regalata a Stefano, e non è la prova. Capito? La provo qui, vediamo come funziona. Antonè? Che ia? 70 euro, me la vendi quella mantova? No, non la vendono. 75? Nemmeno. Costa 80 euro, mi sembra, su internet, che l'ho vista l'altro giorno. 78? Anche. 50? Ma va con 20, rimane di qua. Adesso sabato prossimo, quando oggi è venuto Stefano, l'ho vista, gliel'ho sistemata. Adesso la devo provare domani. Venerdì prossimo la pensate alla sua. No, Antonè, ti stavo dicendo, per la mia antenna, no, come funziona, perché poco fa il dottor Roma ha detto, ti devo rivedere Giuseppe quando la stai sistemando, no, quando cominci a salire su a 6 metri d'altezza e cominci a ondeggiare sul palo. Sì, oh Giulia, c'è un ondeggio tranquillo. È facile per la lontana, non è che sia molto difficile. Lo facciamo venire a casa, Pupu. Lo facciamo venire a casa, così facciamo piantare la mia. Proprio Rum, gli dica lei come si fa a salire su un'antenna, glielo dica. Poi non so sopra il tetto, ne cosa di sopra per l'antenna e poi si mette dritta. Il bello è quando devi fare in campagna, come abbiamo fatto noi due, se ti ricordi bene, 15 metri di palo con l'antenna sopra che si è pigiato un palo. Vai. Tu già te lo ricordo quando abbiamo installato l'antenna, mi sembra che era la Super Pitchbus, adesso non mi ricordo qual era l'antenna esattamente, se era quella lì l'abbiamo messa dentro la Gran Prix. Comunque 15 metri di palo messi in campagna mia, cosa vedo era, mamma mia, si piegava il palo, ripeto, finché l'abbiamo messo piano tutto con i tiranti. Tutti spariti siete, eh? Non siamo spariti, io sono qua. Chiuse! Avanti vera! Questa domenica scorsa ero conduttore, sono passato lì vicino al porto e ho visto il tuo amico Gabbiano. E stavo parlando tu alla radio, come sono passato vicino, ho sentito la tua voce. Cazzo, sei uscito a lasciare valla. Cappa di positivo. Guarda, il Gabbiano quando mi ha visto la sera, io ho visto, guarda, il gatto che tira sul pelo quando è spaventato, il cane. Cazzo, ma lì ho dato la mia vinta la cresce in campo dritta a me, Pierpa. Lo Gabbiano è fuggito. E poi il bello, lo sai che cos'era? Che quando ero lassù che ondeggiava l'antenna, tu che stavi controllando quelle stazionarie, ferma così, adesso è 1:01, Giuseppe, e che da cosa erano ondeggenti, no, adesso sono a 2, fermati così, ho un problema ora a fermarmi lì, guardate che il circo Orfei è sui piattali segni, non è qui, è evidentemente, ma si faccia gli affari suoi, signora, la brava. Già. Ma noi ti vogliamo bene quando metti la direttiva. La direttiva? E che cos'è questa direttiva? E la linea diretta per Porto Torres e per Olbia, per Chilipani, che cos'è questa storia qui? È un'antenna direzionale col motore che si chiama rotore, che tu la piloti da dentro casa, c'è l'elettrico, si gira secondo dove tu vuoi farla girare, punta l'antenna e arriva a fondo scalo. Ma quelle sono cose superate e oramai con rotore, col coso. Ho già ordinato il palo nuovo Gianni per il coso, per l'antenna. Telescopico. Comando idraulico da casa. Schiaccio il pulsante, sale 60 metri dal tetto. Ma esiste? Un altro. Esiste, esiste. C'era anche la macchina del scomposto, quello lì. Guarda qui, la partenza, va da caricare. Ci sentiamo dopo, se coincide. Se no, alle prossime. Cazzo! La carica Mario, saluto a Davide. La carica. Ciao Mario, buona carica e buon tutto, dai, mangia cosa buona per me, Mario lì, che bisogna mantenersi in forma, tappa di positivo. Ma io non ho sentito il falco stasera, falco, falchetta, ci si vede fuori, tanto so che ci si divano il video, ma la suerte non salta fuori, no? Conosce. Cosa? Ha drumito. No, non è il drumito, no, è tra il trava stasera, boh. Oggi stavo aspettando su 10, ma lui ti aggira ogni tanto, boh. Su 10 non c'è, vera, c'ero io poco fa per vedere il buon palchetto, ma niente negativo. Allora, si è addormentato, si è... Il ragazzo dopo tutto il coso che ha fatto per piazzare l'antenna e era anche da solo, Adesso stai frannando. No, siccome ha detto che festeggiava stasera, ho paura che abbia festeggiato un po' troppo. E andiamo anche noi allora, e dov'è la festa stasera? No, ho detto che lui ama festeggiare da solo. Se l'ha piazzata da solo, se la festeggiava da solo. Cava. Beh, il peggio per lui aveva accettato, gli aveva volato la mano. Se stiamo lavorando, come facciamo a dargli una mano? Sì, dargli una mano io oggi. Era praticamente impossibile, perché talmente da lontano oggi che non lo so, e dargli una mano io sarebbe stato come fare un miracolo. E appunto dico, aspettavo domani, o domenica, e l'avremmo fatta, c'è lui, no? Fatta? Io sarei stato giù a controllare le stazionarie. No, tu sei salito a provare il palo. Che vigliacchi proprio siete, non avete proprio pietà voi. Cosa vuoi far salire a Gianni? Gianni, tu devi salire a vedere se la prova del palo. Però buon acciaio pieno, sì. Tranquillo, tranquillo che c'è il terrazzo. No, ma mica c'è il terrazzo, si sale bene, c'è la scaletta per salire, Non dovevi fare la botta, però Gianni mica può salire a provare il palo, il palo aspetta a te provarlo, se non dici a me. Su che andiamo? Andiamo. Oh, il mio ormai, io ho certezza assoluta che ha resistito 87 kg e sia in andata che poi 87 kg con l'incasso poi, perché lì era nella maniera in cui sono salito era da buttare giù quel palo. Ma già resiste il palo, non è così, se hai cercato un pratico va bene, ma uno buono futuro, cosa vuoi che non tenesse? Caspita, quello non è tiene. Appa, appa. Anzi. Non è vero, è ancora spaventato, Sì, a caro di oggi sarei fatto molto la sagra, adesso qui ci tocca la sera. Beh. Ah, la sagra, alle 9:15. Appaga, appaga. E anche sono riuscito un po' tardi, ma ho cominciato alle 5:20, così. E sono uscito non molto ma un po' tardi, sì, però l'ora, le ore erano piene piene proprio, infatti senza un attimo il respiro. Ma poi oggi era un'altra vena da una parte all'altra della città, cazzo, poi anche come finiva una parte all'altra parte della città, poi l'hanno chiamata all'altra parte della città dove ero prima, un'altra vena era. Succede anche a me così. E vabbè, prendiamola come viene, cosa devi fare? Siamo nati per soffrire, diceva quella, è una vita difficile. Cappa di positivo lo tuo rum. Cappa di positivo. Lì si immagini che io l'ho iniziata alle 7 di stamattina. Mezzogiorno e mezzo mi sono fermato per mangiare e alle 5 ero già seduto in camion. Pronti per rullare giù a Vitalba. E vabbè, siamo tutti qui adesso, non ci pensiamo. Avanti, Yogi. Io ho mangiato, adesso mi sono ricaricato. Anche Yogi non c'è più. Sta parlando. Chi ha mangiato, chi si è rifugiato, chi ha mangiato tutti i gestiti della maneta, e a noi nulla. Papà? Tradimento, altro che tradimento questo, Yogi? Mangiato e bevuto, diciamo che adesso stiamo in fase REM. Ma di positivo, è quello che volevo sentire, perché mangiare senza bere non lo so, c'era qualcosa che suonava lì, dai, invece lì si tappa e si beve. Da bere non ci scendeva. Cappa di positivo, rosso o bianco? Bianco. È la morte sua quella, Cappa. Muy bien, avanti il buon bambolo per Yogi, Cappa. Cappa, sento un po' basso, sento. Cappa. Vabbè Giuseppe, volevo dire da poco fa. A tutti i dì, tanto già ce n'è ora di modulare pure. Pazienza, magari è un macchinario necessario, bisogna accertarsi spero che sia quello. Fermi tutti. Antonio, controllati perché mi stai facendo quell'alternata di brutto. Già, provo a vedere adesso. Vedimi che vita adesso, stavo toccando una cosa che non dovevo toccare. Capito Giuseppe? Pazienza, dai, se da una certa ora tu già passa tutto. qui ceno dalle 8 alle 9 e niente, il gioco è quello che è fatto, non è che muore nessuno. Pazienza, dai, no, ma è successo una cavolata, purtroppo, però a scoprire una gondoliera bisogna scoprirlo, quello senza un bel dubbio. Lo so, però per scoprirlo ci vuole l'apparecchiatura là, tanto puoi andare così a naso con un ricevitore così, cosa scopri? Non è che scopri niente, scopri il segnale in questa zona, poi magari se ti sposti i due isolati lo puoi di nuovo ritrovare, come l'ha sentito anche il Falchetto, questo segnale qui a casa sua. E devi sapere cosa vengo a galla, guarda, non ti preoccupare. Ma speriamo bene, dai, facciamo girare. Avanti, li facciamo entrare. Avanti, che fa, prendita la tutita. Che cavolo. La riprendo io e anche gli occhi, dai, sono stanco. C'ho le braccia a sterzo pure, dai. Vado a distendere un pochino, perché c'ho la schiena che non regge più. Dai, vi saluto tutti quanti circolari, saluto, sicuri non dimentico nessuno, saluto tutti circolarmente e ce la riassentiamo domani alle prossime, dai. Ciao, buonanotte a tutti. Kappa, ciao Vela, ci sentiamo domani e niente, dai. Buon 144 e buon riposo. Avanti doppio rumba. Ciao Vela. Avanti, bombolo. Minchia, fate le braccia che Gianni si è collassato. Se... Salutare, dai, va bene, ciao, ciao. Ciao Perpa, dopo Lumiglione. Ciao Perpa, te stai andando, buonanotte allora, tra poco per domani. Avanti Giuseppe. Appa di positivo, ve l'avevo già salutato e niente, se la stanchezza sopravanza io direi che se per voi va bene possiamo anche chiudere, non ci sta problema. Kappa di positivo, buonanotte. Io ti prendo, adesso già sono qua. Ciao Yogi, buonanotte anche a te. E avanti Bombo. Buonanotte Yogi. Proprio rotto. Kappa. Vabbè, io riprendo e vi saluto perché mi sta venendo la piova. Ci sentiamo ragazzi, con tabacco per domani per chi lo fa. Buona giornata per chi naturalmente andrà a farsi i giretti o sale sul tetto. Va bene, detto questo saluto tutti e me ne vado tutto in 144 e mi metto sotto le coperte anche alla faccia di Granolù. Ciao. Kappa di positivo, doppio rum, il sottoscritto ti segue a ruota, perché dopo la giornata che ho passato oggi, un 144 per Giuseppe, aia, ci sta alla grande, e faccio riprendere il bombombolo. Kappa, ciao, buonanotte già, dai, ci risentiamo domani, all'escursione, ciao, buonanotte. Ti volevo chiedere una cosa veloce, ma non l'hai trovato neanche Giuseppe oggi? Kappa di positivo, tempio pieno. Tempio sempre bianco. Kappa. Poi basta. Come mandala? Vedete, poi nessun altro posto sei andato. Sì. Ho fatto Olbia, Pimpio e Vidalma, poi sono passato lì a Santa Maria Goina, sono pranzato e poi ho fatto l'ultimo scarico a Castelsardo. La sua Pimpio l'ho trovata la notte. Kappa di positivo. Kappa, fatto non immaginavo. Se si vede che sta... Ama quella più buona quando è ghiacciata. che mi dice Manzano, gnognò. Già lo so. Gamma, a me disinfetta un po' l'aria. Pappa di positivo, Dombolo, sono perfettamente d'accordo con te. L'aria è più sana quando c'è la neve ed è più disinfettata, sì. È così. È così. La gamma. Eppure quando... Che cavolo, io me l'avevo sempre la smeraldina. Ed è buonissima quell'acqua. Io me la porto giù a bidoni da tempio. Sento, quando chi è avanti? Buglia sono il Buglia. Mario. Bel poco quello, Io ci sono andato una volta lì, nelle vicinanze della, dove c'è la fontana, eccetera, eccetera. Cavolo, ma lì dovrebbe essere un bel posto. Non sono mai entrato dove c'è proprio urinario. Lei dice che per un cammino la va bene, vero? Sì, ma non è molta la strada da fare a piedi lì. Se scendi in macchina e arrivi vicinissimo. Però quella di Rinaggio va bene se proprio devi fare la cura per i reni. E se no ti conviene prenderla direttamente su a Tempio. Io la prendo su alla zona industriale e nella strada vecchia di Oscheri va e tu devi vedere un bidone da 20 litri, quel tubo lì te lo riempie in 20 secondi. E alla prossima volta che vado in quelle coordinate ci trovo. A me non trovare la fonte. Tappa di positivo, Mario. È facilissimo trovarla. Pagato, già me lo ricordo già. Vabbè, già me lo ricordo. Sono passi la, diciamo, la caspita. La mettete al mano, dietro lo affianco. Allora Mario, te lo spiega Giuseppe, come superi il deposito della Netezza Urbana, e prima vedi che c'è quel ponticello, no? E giri sulla destra ed entri nella zona industriale, ok? Ok. Oh, vai dritto, c'è poco da sbagliare, e trovi un supermercato, c'è anche la scritta, supermercato La Quercia. L'avevi visto quello? È da lì, vero? No, devi andare ancora appena avanti e trovi la strada che scende sulla destra. Vai lì giù, trovi lo spiazzo, c'è quello che taglia il coso, il granito. Vai lì e c'è proprio la fonte lì sotto. Ma è una cosa, guarda, che è uno spettacolo solo a vederla. Ma va bene, bella. Sì, adesso vediamo un po' cosa ne salta fuori. Appena che vado in quelle coordinate, intanto mi ha detto io, penso che forse alla settimana devo andare a portare i radiatori per l'ospedale. E se quando non mi vedi gli edifici io ci faccio un salto. Cappa di positivo, Mario. Ma lo sai che devi salire lì in quelle coordinate, portati un paio di bidoni. Vedrai che ma è uno spettacolo quell'acqua, tu la tieni a casa anche dentro, hai caldo a casa, no? E per dirti com'è fatta quell'acqua, e può rimanere tutto il giorno al caldo, no? Tu la prendi dal bidone, te ne versi un bicchiere ed è sempre ghiacciata. E da vedere, da vedere, da provare. No, io alla fonte di Nenaggio proprio non ne piglio acqua, io la piglio, di solito me la pigliavo lì, all'ingresso di Cecchio dove c'è la fontana, oppure prima di Cecchio giro per Agius, come sai per entrare nel paese, sulla destra c'è la fonte e la piglio da Agius, che poi è sempre la stessa acqua. Cappa di positivo anche quella appena prima di Algius è ottima come acqua. Quella che è dentro più all'ingresso di tempio, dove dici tu, quello era in Ageto. Cappa di così tipo. Quella che prendi tu, all'ingresso di Agios, è l'acqua più buona che si possa bere, perché la stessa ponte che scende dall'Imbara, e sarebbe quella che prendo io su alla zona industriale. Monte di Deo, come sembra si chiama, vero? Monte di Deo. È quella che imbottigliano anche. Papà, lì c'è la smeraldina che imbottiglia, infatti una fonte la devono tenere libera per il pubblico. Non mi sono sbagliato, dai. Si chiama così la località, Monte di Deo, a quanto c'è scritto. Papà, oppure c'è le tre fontane, o come dicono in tempio, le tre fontane. E lì ci sono tre fonti, fatte bellissime, fatte tutte quante in granito con i rubinetti, le vaschette, anche quella l'acqua è buonissima, però quella si trova sulla vecchia strada che da tempio porta ad Oschiri. Con l'acqua è caricata, è proprio uno spettacolo, come dici tu. Pura, 100%, e si può bere alla grande. Cappa, è più pura quella che si compra nel supermercato in già imbottigliata. Mi chiama, mi chiama. È un grido, via. Buona quella l'acqua, Mario. Qua Mario. Mi risenti lontani? Lontani. Gappa, ascolta, sai che sei andato a tutti. Gappa di positivo, sogni dai fratelli Busia. No, ma alla ponte che c'è, più su di tutti, quando stai segnando la strada per andare a Montespada, hai visto che lì c'è una fontana, lì ci sei mai stato? Cappa, io ho preso anche l'acqua da lì. Quella fontana c'ha una storia, lo sai che hanno fatto la guerra per lasciarla libera così? Ci volevano fare lo stabilimento. Quella è acqua di tutti, Mario, perché l'acqua nasce a fondi. Cappa, è positivo. E perché scusa, entrando da Tula, io quella strada l'ho fatta in camion e io le stampi liberi, e passi da Tula e fai Erula e tutta quella strada lì e ne sbucchi esattamente sopra l'Imbara, sei proprio in cima all'Imbara e poi pian pianino scendi per Tempio. Quando sei proprio in cima all'Imbara, guarda le fonti che ci sono lì su Mario, mamma mia quanto è buona quella. L'acqua lì. Non ci sono mai stato, però come ci avrò occasione vedrai che se ci vado. Tanto io quando sono col cannoncino sono tipo di mangiare e già me lo da fare. Cappa di positivo, guarda se passi in quei posti lì con l'acqua e fa bene come la mano di Dio quando la bevi, proprio bella, pura e cosa dire, tutto quello che può richiedere l'organismo con l'acqua ce l'ha, cosa che invece ti toglie quando le imbottigliano negli stabilimenti, quando cominciano e le bottiglie le disinfettano con quella porcheria che gli mettono e quell'altro lo disinfettano con le altre porcherie che gli mettono, invece lì Mario, uscendo direttamente pura dalla fonte, devi sentire che forza che ti dà. Gappa, va bene, dai, non c'è problema, appena che capita in quelle coordinate vedrai che Mariolino un giro, almeno per vedere le fonti se lo fa. Cappa di positivo, Mario. Cappa di positivo. Bene, mera. Io mi sa, Mario, che come ho detto già da mezz'ora fa, mi faccio un bel 144 perché arrivata a quest'ora, credetemi, sono veramente stanco, sia di testa che di corpo, perché dopo il giro che mi sono fatto oggi, non lo so, forse due giorni bastavano me per farlo il giro che mi hanno dato, mannaggia, però dai, siamo a casa, domani un altro giorno, mannaggia, e si vedrà, domani più riposati e tutto, e sabato non si lavora e su che andiamo. Appunto, poi quando io credevo che si trattenesse un po' di più, perché domani il figlio ci ha fatto e domani mattina dormi alla grande. E cappa, allora bisogna che mi alzi per bermi un bel bicchiere d'acqua. Ragazza, sai com'è che fosse a casa tua, Giuseppe? Grazie Mario, sei un amico. Un amico. Allora, e tu dormi tutti sì? Io ci sono qua già. Dove dice Giuseppe ci vorrei andare, perché a me piace stare in quei posti lì, perché quando tu vai lì sembra che ti dà un senso di stare bene, proprio. Certo, è Mario, l'aria è anche più pura, è tutto diverso. È tutta un'altra cosa, lì se tu vai alle porte di Rinaldo è bello perché ci sono i tavoli granito, no? E poi ci sono anche le panchine per sedersi in granito, puoi andare a farti anche un bel picnic lì. Me l'hanno detto che c'è una bella, un bel coso, come si dice, una specie di finestra, una cosa del genere, dai. Ma lì si sta da Dio, secondo me. Cioè, faccio una serata bellissima. A me piace molto andare in questi posti qua, perché io sono stato a Bono, a tutti questi posti qua. Cavolo, si stava bene, si stava brutto. Di positivo. No, anche io già mi ho girato tanti posti. Ma io sto bene dappertutto, basta che ci sia da mangiare, sto bene dappertutto. Ah no, così si fa. C'è tutte quelle zone di della Salvezza, quasi tutte. C'è rimasta la parte, quando scendi a Cagliari, la zona di sinistra, tipo il Poetto, quelle cose lì, che non ci sono mai stato. Ma io alla parte destra, anche di Cagliari, di Carbonia, Sant'Antioco, e tutti quanti quei posti lì li ho girati, Meno male li ho girati, per lavoro, però li ho girati tutti. Scappa. Io, faccio per lavoro, il porti la merce, magari pure anche un giretto, così si fa sempre. Anche io sono fatto a Cagliari una volta solo. Che cazzo, una volta solo? Mi pare che ci facciano un po' più di tutte le cose che sono andate a Cagliari. Io anche l'ultima volta che sono acceso a Villa Giro ho fatto la consegna e poi me ne sono sceso giù a Cagliari. Mi sono fatto giro a Cagliari e poi sono risalito, ho ritirato. E la sera sono rientrata solo. Scappa. No, io sono andato solo la volta di fare la visita militare e poi non sono più andato. Eulia, che meraviglia. Sono passati 36 e 2, 39 anni sono passati. Sei andato giù a fare la visita a Cagliari. A Calamosca. Cappa. A me ne sono passati 7 anni, 10, forse anche di più. Non lo so, comunque una cosa del genere. Io sono partito anche alla Spezia, poi mi hanno fatto l'invedibile per l'esercito da poi. Siamo a destinazione e poi no, non me lo più chiamato. Gaffa, gaffa, niente, cosa ti vuoi fare, così è. Io invece me lo sono fatto tutto brutto. E chi te l'hai dirigito in faccia? Papà, hanno detto, chi tu deve venire con noi? Noi. Gaffa, gaffa. E invece mi sono cagato. Così avrei dovuto fare anch'io, mannaggia. Io ho fatto la visita lì a Calamosca, tutto quanto, bello e coso, e la poi mi hanno fottito. Ti hai fatto bene, ti hai fatto bene, perché tanto fai a pensare con che sono tempo perso. Io sono partito in due posti, sia alla Spezia sia a Calamosca. Come in due posti? Posti, in due posti diversi. Prima mi hanno mandato alla Spezia e poi a Cagliari, a Calamosca. Ma alla Spezia perché allora avrei destinato in Marina. Ah. E poi all'esercito. Servo la destinazione. Doppio spreco di soldi, come si fa di solito in Italia, dai. A me invece direttamente a Calamosca, e che mi hanno i botti due in pieno? Sono imbigliato. Tre mesi, un mese a Orvieto, 3 mesi di scuola ho fatto a Piacenza, e il resto l'ho fatto a Civitavecchia. Io cerco... Però non sono mai partito perché dopo è passata la legge, non so di cosa. In Trentino. E poi perché mi faccia quello del Senato, cos'è? Dimmi Mario. Pensa lì, non c'era inferiore. Bello, non c'era inferiore, io ho avuto un amico che ha fatto il servizio militare. Bersaglieri è un corpo nobile dell'esercito. Oh Mario, visti da voi, cazzo, ne sempre correnti, cazzo, non si fermano mai. Andate voi che a me mi c'è caparare lì. Su che andiamo? Si rulla. Che rulliamo forte. Ragiono, l'ho letta, quella frase l'ho letta, l'autoscontro. Non sono andata la giostra. Su che rulliamo. Su che c'è a ridere. E capa di positivo. Bisogna prenderla sempre con un pizzico di ironia la vita, di anche un pochino con filosofia, dai, un sorriso non guasta mai, mannaggia, tanto più nera di com'è la vita non si può, quindi cerchiamo di addolcircela noi in qualche maniera. Sono d'accordo con te, no, non ci sono problemi per quello. Oggi mi sono andato a tavola, ho visto un po' di gente che non c'era buona, dai, ha giocato un po' di spettacolo, ho perso tutto lo stesso girato, e sono andato in retromarcia, girando, ho tutto canto la pista. Allora, perché vanno anche a retromarcia con le macchine lì? La parte di là è tutto lo stesso. Ti faccio girare in tondo, come? Cava. Comunque, un fatto furioso. Io ho portato la bambina sui rischi volanti. Case poco non siamo riusciuti. Schiacciano molto, Informatica. Tu figurati, credevo che aveva paura Veronica sui dischi volanti, no? Come tu i sali e cose, invece niente, e poco non era contenta. A me piace più l'autoscontro, dico la verità. se uno si cudi e cosa non fa mai danno? No, arriviamo più veloce l'andennato. So che andiamo. Ma poi mi metto al centro di sviluppo. L'altro giorno sono entrato al bar e c'era uno che si stava pigliando il caffè ed era con degli amici, no? E anziché mettersi una bustina di zucchero se ne ha messo due e gli amici l'hanno levato, e tanto gli dicevo che l'orti e io gli ho risposto, ehi, noi gli bocchi d'orti, non avevo detto la vita è tanto amare e ha bisogno di un po' di dolcezza. Positivo. E quella è proprio la parola giusta, mi Mario. Cavolo, già è amara la vita, in più cavolo, ti devi prendere anche il caffè amaro. E ha fatto me. Cavolo, se continuiamo di questo passo, gnogno, mi pare che vivono in quattro il caso di Buscini a tutti quanti per addolcirsi un pochettino. Dicevano che la crisi era nel 2009, nel 2010 vedete che con la televisione, vedete, mi pare che la crisi stiamo cominciando a sentirla noi adesso, e nel 2009 stavamo da Dio. Diciamo che più vai più si sente. Non hai sentito che da domani c'è sciopero dei pullman, dei tram, delle navi, dei treni? Cappa di positivo, sciopero generale, oggi c'era quello degli aerei, non si volava, domani tram, pullman e tutta quella storia lì, e troppo malumore c'è in giro, C'è troppa migragna, c'è troppa migragna, è inutile che loro continuino a girarla come vogliono, c'è troppo malumore e io ho l'impressione che qualcosa ancora debba succedere qui in me. Poi magari è probabile che mi sbagli, ma guardate cosa sta succedendo in Grecia. Sarà una casina che fa. Ma secondo me torneremo alle guerriglie se continuiamo a questo passo. Eia, guerriglie e guerra civile, ma guardate cosa tutto sta succedendo intorno, cioè ma si può continuare a vivere così? Se voglio che ti dica. Che due citi che ci stanno dando ti bastano per arrivare sino a metà mese. L'altra metà del mese devi stare arrancando e cercando con le unghie, con i denti di tenerti in equilibrio, perché al primo passo falso che metti cade, cagi e non te ne pesi più. Carità di Dio, carità, guarda. No, praticamente siamo travagliati in fabbrica, che aspettare su il pane per mangiare qualcosa. Stiamo lavorando per loro. Cappa di positivo. Come dici giustamente tu, stiamo lavorando per sopravvivere, non per vivere mi. E a tu. Per sopravvivere. Perché non si riesce più a far niente, non hanno più valore questi soldi, tu esci di casa con 50 euro, non fai niente e rischi di ritornartene a casa con le tasche vuote, fai anche brutta figura che non hai pigliato nulla. ma è così, è così. Oggigiorno si sta sopravvivendo per loro. Cioè, noi lavoriamo tutte le cose e pigliamo le maette. La mappa viene in fare e noi ci rimane una bricciolina. Mappa di positivo? Però c'è ben chiaro una cosa, che i nostri parlamentari, sia di destra che di sinistra, di centro, di su, di giù, verdi, rossi, bianchi, arancioni, tutti d'accordo, si sono aumentati lo stipendio di 1.307 euro. Sì, evviva l'Italia, fatti da noi. Cava. Lasciamo perdere che è meglio. Va bene, detto questo, buonanotte Mario, buonanotte a te Giuseppe e a tutti gli ascoltori, ciao, quelli per me, ciao. Cappa di positivo. Ciao Anto. Buon Corretti 144. E ci risentiamo alle prossime, dai. Io ti seguo perché pure a me mi si sono appascendi letteralmente le saracinesche. Oia, aspetta che se riesco a sistemarmi un pochino, ma che ancora va giù il sedere a forma delle sedile del camion. Stai dicendo, sei anche il frigo padre. C'è il frigo a mare, c'è il birichino per parlare, per rispondere, e oramai è tutto mio Mario. Oramai fra un pochettino li mandano da soli e fanno tutto da soli questi camion. Ho visto che ci sono anche i camion che hanno il coso, come si chiama, quella quale per quando c'è la nebbia. E per quando sei sbandato che esci fuori dalla linea bianca per non farti uscire fuori strada, che c'è la telecamera che guarda e ti addrizza lo stesso da sola. Arriva, oggi ci sputi sopra quelle macchine quando è tutto loro. Stavo dicendo Giuseppe, ma io sono passato, i camion vecchi che avevate sono ancora lì, non li avete versati. Quello devono portare via la prossima settimana e quello blu lo hanno acquistato. Ah, quello blu l'hanno acquistato, quell'altro bianco che c'è sotto, giù. Quello lì è quello che usa l'altro mio collega. Gaffa. No, io siccome sono passato e ho visto sia la gru del blu della strada, e sia l'altro bianco, e ho detto ma non li hanno versati i cani, hanno pigliato i cani a nuovi e non li hanno versati. L'altro giorno c'era, se non sbaglio, un Mercedes, il tuo è il Mercedes con la gabbina bianca. Cappa Mario, quello sì, quello che ha la gru posteriore. Sì, ma se lì l'altro giorno era dentro il capannone dove c'è tutto quanto il vetro ed era il primo a uscire. Cappa di positivo. E lì dove il capannone principale, quello è dove carichiamo. Cappa. Va bene, va pure, Giuseppe. Vai a fare la nanna, dai, che anche io ti seguo a ruota. Che anche io sono un po' stanchino. E all'incontrario di te, io domani lavoro. Cappa di positivo, va. Buonanotte, buon tutto. Che si costa le bambine. Ciao. Cappa di positivo, Mario. Serena notte anche a te, buon 144 e buon trabacco per domani, Mario. Ce la risentiamo appena possiamo, dai. Come coincide, Mario, appena accendi il baracchino, noi ci sentiamo in frequenza, dai. E alle prossime, ciao Mario e serena notte.